Yeah, ehi, oggi disse che ieri starò fosse vivo il presente nel paese degli struzzi, dove non vedi più niente con la testa sottoterra, dove la gente che pensa solamente ai propri cazzi non può chiudere gli occhi di fronte al male e alla guerra. Vivo una gomorra credendo di stare bene, sotto un cielo indifferente camuffano le altre pene. C'è chi vive per la strada senza un letto, senza un tetto, senza affetto e con lo stretto necessario degli esclusi. La gente li scalcia, non li guarda neanche in faccia, subiscono la minaccia di vivere da reclusi. Vengono chiusi dentro un mondo parallelo, dove non sentono freddo perché vivono nel gelo, dove solo una coperta li riscalda nella notte, dentro una stazione aperta riposano le ossa rotte. Ti è capitato di vederli giù in un vicolo, per questo governo in eterno faranno scandalo. Chi gli sta di fronte intanto fa finta di niente, gli cammina accanto ma tanto altrove alla mente, pulisce la coscienza facendogli l'elemosina per togliere sto male appiccicoso come resina. Ma intanto lesina sto mondo circostante, nasconde la sua testa dentro il buco più distante. Ma va tutto bene fino a quando non ti levano le tue partite oppure i capi che pagavano. Va tutto bene nel paese degli struzzi, sì, va tutto bene ma guardare non ti sforzi, no. Va tutto bene fino a quando non ti levano la tua casa, il tuo lavoro e ti reprimono. Va tutto bene nel paese degli struzzi, sì, va tutto bene ma guardare non ti sforzi, no. Va tutto bene fino a quando non ricevono una malattia e devono tenerti in male, ciò equivale ad essere scomodi pure all'ospedale. Ho detto la corsia di un posto convenzionale, moriranno per la strada senza avere un funerale, con accanto il tavernello nell'angolo di un bordello. Ma i fantasmi non si tagliano le vene col coltello, il sistema adesso vieta per loro l'accattonaggio a questa gente che vive in mezzo al disagio. E il mondo circostante vede ma non dice niente, chiude la sua mente come un libro l'ignorante, allontana il proprio sguardo da ciò che gli è ripugnante, discosta la paura scura dal proprio versante, pensa al suo contanto oltre che al conto corrente, al posto di dirigente la fanno per seguirlo, a niente è diverso che nel mondo è disperso, e copri i propri occhi perché non vuole vederlo. Ma la notte è fredda quanto quella strada è sporca, e qua tutti la vedono ma chiudono la bocca, e già hanno paura di dare ciò che ora tocca, e fra hanno paura di finire sulla forca. Ma va tutto bene fino a quando non ti levano le tue partite oppure i capi che pagavano. Va tutto bene nel paese